M. 39esima traccia. Harriet si espresse più o meno come era da attendersi, senza rimproveri, o senza dar segno di sentirsi trattata male. Eppure a Emma parve che ci fosse un'ombra di risentimento, qualcosa che vi si avvicinasse parecchio nello stile di lei. E questo non fece che far sembrare ancor più desiderabile che loro due rimanessero lontane. Poteva essere solo la sua propria coscienza, ma pareva come se soltanto un angelo avrebbe potuto essere del tutto alieno dal risentimento sotto un colpo simile. Emma non ebbe difficoltà a ottenere l'invito da parte di Isabella ed ebbe la fortuna d'avere sufficiente ragione di chiederlo senza incorrere a un'invenzione. C'era un dente che non andava. Harriet desiderava proprio, e aveva desiderato per qualche tempo, di consultare un dentista. Mrs. John Knightley fu ben lieta di riuscire utile. Qualunque cosa attinente a cattiva salute costituiva per lei una raccomandazione. E sebbene non fosse tanto attirata da un dentista come da Mr. Wingfield, non desiderava di meglio che d'avere Harriet affidata alle sue cure. Una volta fissato ciò con la sorella, Emma lo propose all'amica e la trovò facile a persuadere. Harriet sarebbe andata, era invitata almeno per una quindicina di giorni. Avrebbe fatto il viaggio nella carrozza di Mr. Woodhouse. Tutto fu combinato e messo in esecuzione, e Harriet arrivò sano e salva a Brunswick Square. Adesso Emma poté davvero godere delle visite di Mr. Knightley. Ora poteva parlare e poteva ascoltare con vera felicità, non trattenuta da quel senso di ingiustizia, di colpa, di qualcosa di molto penoso che l'aveva ossessionata allorché si ricordava che cuore deluso le era accanto e quanto dovessero patire in quel momento e a pochissima distanza sentimenti che lei stessa aveva traviato. La differenza tra Harriet e Mrs. Goddard e Harriet a Londra creava forse una differenza irragionevole in ciò che sentiva Emma, ma non poteva pensare a lei a Londra senza vederla piena di curiosità e di faccende, e questo doveva distoglierla dal passato e distrarla. Emma non permise che altre ansie prendessero subito nella sua mente il posto che aveva occupato Harriet. Essa aveva dinanzi a sé una comunicazione che lei soltanto poteva fare, la confessione del suo fidanzamento al padre, ma per il momento non ne voleva far nulla. Aveva deciso di rimandare la rivelazione a quando Miss Weston fosse stata fuori di pericolo e ristabilita. Nessuna nuova agitazione doveva essere gettata in questo periodo tra coloro che essa amava, e la penosa faccenda non avrebbe dovuto far sentire il suo effetto su di lei prima del tempo fissato. Una quindicina di giorni almeno d'agio e di tranquillità, per coronare ogni gioia più calda ma più eccitante, avrebbe dovuto essere sua. Presto decise, come un dovere e insieme un piacere, di impiegare mezz'ora di questa vacanza dello spirito nel far visita a Miss Fairfax. Sarebbe dovuto andare e bramava di vederla, che la rassomiglianza delle loro situazioni presenti accresceva ogni altro motivo di benevolenza. Sarebbe stata una soddisfazione segreta, ma la consapevolezza d'una somiglianza di prospettive avrebbe certamente aumentato l'interesse col quale essa si preparava ad ascoltare qualunque cosa Jane avesse avuto da dirle. Essa andò. Una volta si era recata in carrozza, senza successo, fino alla porta, ma non era entrata nella casa dalla mattina successiva a Box Hill, quando la povera Jane era in una tale angoscia che l'aveva riempita di compassione, sebbene tutto il peggio dei suoi patimenti non fosse stato sospettato. Il timore che la sua visita non fosse ancora gradita la decise, sebbene avesse la sicurezza che si trovava in casa, ad attendere nell'ingresso e farsi annunziare. Udì Patty pronunziare il suo nome. ma non avvenne nessun trambusto come quello che l'altra volta la povera Miss Beth aveva reso così felicemente intellegibile. No, non udì altro che l'immediata risposta. Pregala di salire. E un momento dopo Jane stessa le venne incontro sulle scale piena di fervore, come se sentisse che nessun'altra accoglienza da parte sua sarebbe stata sufficiente. Emma non l'aveva mai vista così raggiante, così vezzosa, così attraente. Mostrava consapevolezza, animazione e calore. Ogni cosa di cui il suo aspetto o i suoi modi potevano mai aver avuto bisogno. Si fece avanti tendendo la mano e disse in tono basso, ma molto pieno di sentimento: «Questo è davvero molto gentile. Miss Woodhouse, mi riesce impossibile esprimere. Spero che vorrete credere. Scusatemi d'essere così interamente senza parole». Emma provò gran piacere e presto avrebbe mostrato che lei non mancava di parole, se il suono della voce di Miss Elton dal salotto non l'avesse frenata e non avesse reso conveniente comprimere tutti i suoi sensi d'amicizia e di felicitazione in una calorosa, calorosissima stretta di mano. Mrs. Beth e Mrs. Elton erano insieme. Miss Beth era fuori e questo spiegava perché tutto fosse prima così tranquillo. Emma avrebbe potuto desiderare che Mrs. Elton fosse altrove, ma era d'umore d'aver pazienza con tutti, e siccome Mrs. Elton raccolse con insolita affabilità, sperava che l'incontro non avrebbe fatto loro alcun male. Ben presto credette d'aver indovinato i pensieri di Mrs. Elton e di capire perché era, come lei, d'ottimo umore. Era per il sentimento d'essere la confidente di Miss Fairfax e perché si immaginava di conoscere quel che per gli altri era ancora un segreto. Emma scoprì indizi di ciò immediatamente nell'espressione del suo volto e mentre faceva i suoi convenevoli a Mrs. Beth e sembrava badare alle risposte della vecchia buona signora, la vide con una specie di ansiosa esibizione di misteriosità ripiegare una lettera che apparentemente aveva letto a voce alta a Miss Fairfax e riporla nella borsa violetta e dorata lì accanto, mentre diceva con significativi cenni del capo: «Possiamo finire questo un'altra volta, sapete. A noi due non mancheranno occasioni. E del resto avete già sentito tutto l'essenziale. Volevo solo dimostrarvi che Mrs. Morridge accetta le vostre scuse e non è offesa. Vedete in che modo incantevole scrive. È una creatura così dolce. Sareste andata pazza per lei se vi foste recata là. Ma non una parola di più. Siamo discrete. Prendiamo il nostro miglior contegno. Zitte. Rammentate quei versi. Non ricordo più ora da che poesia. Che è quando una signora è in ballo, ogni altra cosa cede il passo. Ora, mia cara, io dico, nel caso nostro, invece di signora si legga Bucci. A buon intenditor poche parole. Sono in vena stamane, no? Voglio tranquillizzarvi riguardo a Mrs. Morley. Il mio modo di presentare la cosa, vedete, l'ha placata del tutto». E da capo, quando Emma solo volse il capo per guardare il lavoro a maglia di Mrs. Beth, aggiunse quasi sussurrando: «Non ho fatto nomi, avete osservato? Oh no, cauta come un ministro di Stato. Ho condotto la cosa benissimo». Emma non poteva dubitare. Era uno sfoggio trasparente, ripetuto ogni occasione possibile. Quando tutte ebbero parlato per un po' d'amore e d'accordo del tempo e di Mrs. Weston, Emma si sentì rivolgere bruscamente la parola con: «Non vi pare, Miss Woodhouse, che questa birichina della nostra amica si sia rimessa in modo incantevole? Non vi pare che la sua cura torni a grande onore di Perry?» A questo punto ci fu un'occhiata molto significativa per Jane. «Parola d'onore! Perry le ha fatto recuperare la salute con mirabile prontezza. Oh, se l'aveste veduta, come l'ho veduto io, nei momenti peggiori!» E mentre Mrs. Bates stava dicendo a Emma qualcosa, sussurrò ancora: «Non facciamo parola di assistenti che possa aver avuto Perry. non una parola ad un certo giovane medico di Winter. Oh no, Perry avrà tutto in merito. «Non ho più avuto il piacere di vedervi, Miss Woodhouse», cominciò poco dopo, «dal giorno della gita a Box Hill, una gita deliziosa. Ma pure credo che ci mancasse qualcosa. Le cose non parevano, cioè pareva che ci fosse una piccola nube sullo spirito di alcuni. Così almeno parve a me, ma posso essermi sbagliata. In ogni modo, credo che la gita ebbe successo in quanto ha lasciato la tentazione di tornarvi». «Che ne diresti di riunire la stessa comitiva ed esplorare di nuovo Box Hill mentre duri il bel tempo?» «Deve essere la stessa comitiva, sapete? Proprio la stessa comitiva, nessuno eccettuato». Un momento dopo entrò Miss Bates ed Emma non poté fare a meno di essere divertita dalla perplessità della sua prima risposta a lei stessa, che proveniva, essa supponeva, da dubbio su ciò che si potesse dire e dà impazienza di dire ogni cosa. «Grazie, Miss Woodhouse, voi siete la gentilezza in persona. È impossibile dire. Sì, capisco davvero benissimo le prospettive della cara Jane. Cioè, non intendo dire, ma lei si è rimessa in modo incantevole. Come sta, Mr. Woodhouse?» «Ne sono tanto lieta, proprio al di là delle mie forze. Un piccolo circolo così felice come trovate qui il nostro. Sì, davvero, un giovanotto affascinante, cioè così affabile, voglio dire il buon Mr. Perry, tali attenzioni per Jane». E dalla grande e più che consueta effusione di ringraziamenti di lei verso Mrs. Elton per la sua presenza, Emma indovinò che c'era stato un piccolo screzio con Jane da parte della canonica, che ora era stato superato benignamente. Invero, dopo alquanto sussurrare che mise la cosa fuori dubbio, Mrs. Elton, parlando a voce più alta, disse: «Sì, son qui, mia buona amica, e ci sono stata tanto tempo che in qualsiasi altro posto avrei ritenuto necessario di fare le mie scuse. Ma la verità è che aspetto il mio signore padrone, ha promesso di venirmi a prendere qui e di presentarvi i suoi rispetti». «Come? Avremo il piacere d'una visita di Mr. Elton? Questo sarà davvero un gran favore, perché so che i signori non fanno visite la mattina e il tempo di Mr. Elton è così preso». «Lo è, parola d'onore. Miss Bates, egli è proprio affaccendato da mattina a sera. La gente non finisce più di venire da lui con questa o quella scusa. I magistrati, i soprintendenti, i fabbricieri sono sempre lì a voler la sua opinione. Sembra che senza di lui non riescono a far nulla». «Parola d'onore, Mr. Elton, dico spesso, meglio voi di me. Non so che ne sarebbe delle mie matite e del mio strumento se io avessi solo la metà di tanti visitatori. Già va abbastanza male così, perché io assolutamente li trascuro entrambi in modo imperdonabile. Credo di non aver suonato una sola battuta da 15 giorni a questa parte. In ogni modo, viene, vi assicuro, sì proprio per mettersi al servizio di voi tutte». E, portando la mano alla bocca per non far udire a Emma le sue parole: «Una visita di congratulazioni, sapete, o sì proprio indispensabile». Miss Bates si guardò intorno raggiante. «Ha promesso di venire a raggiungermi appena si sarebbe liberato di Knightley. Ma lui e Knightley si sono chiusi insieme per un profondo consulto. Mr. Elton è il braccio destro di Knightley». Emma non avrebbe voluto lasciarsi sfuggire un sorriso per tutto l'oro del mondo e disse soltanto: «Mr. Elton è andato a piedi a Donwell? Sentirà caldo nella passeggiata». «Oh no, è un'adunanza alla corona, una vera e propria adunanza. Ci saranno anche Weston e Cole, ma mi è capitato di nominare solo quelli che dirigono gli altri. Mi immagino che Mr. Elton e Knightley fanno come vogliono». «Non vi siete sbagliate di giorno», disse Emma. «Io sono quasi certa che l'adunanza alla corona ha luogo domani. Mr. Knightley era ieri a Harfield e ne ha parlato come se dovesse aver luogo sabato». «Oh no, l'adunanza è certo oggi», fu la brusca risposta, che significava l'impossibilità di qualsiasi errore da parte di Mrs. Elton. «Io credo davvero che questa è la più seccante parrocchia che ci sia mai stata. A Maple Grove non sentivamo mai cose simili». «La vostra parrocchia là era piccola», disse Jane. Parola d'onore, mia cara, io non lo so perché non ne ho mai sentito parlare. M'è dimostrato dalla piccoletta della scuola di cui vi ho sentita discorrere come di quella che era sotto il patronato di vostra sorella e di Mrs. Bregi, l'unica scuola e non contava più di 25 bambini. Ah, come siete brave, verissimo. Avete un cervello che pensa. Dite un po', Jane, che perfetto carattere faremmo io e voi se potessimo venire mescolate insieme. La mia vivacità e la vostra solidità produrrebbero la perfezione. Non che io presuma di insinuare, però, che alcuni non possono ritenere che voi siete già la perfezione. Ma zitta, non una parola, vi prego. Pareva una cautela non necessaria. Jane intendeva rivolgere la sua parola non a Mrs. Elton, ma a Miss Woodhouse, come quest'ultima si accorse chiaramente. Il desiderio di darle qualche speciale segno di stima, fin dove lo permetteva l'urbanità, era molto evidente, sebbene spesso non potesse manifestarsi che con uno sguardo. Mr. Elton fece la sua apparizione. La sua signora lo salutò, con un po' della sua spumeggiante vivacità. «Un bel favore avete fatto, signor mio, parola d'onore, mandarmi qui per essere d'impiccio ai miei amici tanto tempo prima che voi vi degnate di venire. Ma voi sapete con che creatura sottomessa avevate a che fare. Sapevate che non mi sarei mossa finché non fosse comparso il mio signore e padrone. Sono rimasta qui seduta per un'ora, offrendo a queste signorine un modello di vera obbedienza coniugale». Perché chi può dire sapete se non ce ne sarà presto bisogno? Mr. Elton era così accaldato e stanco che tutta questa arguzia pareva gettata al vento. Dovette fare i suoi convenevoli alle altre signore, ma il suo tema seguente fu di lamentarsi per il caldo che stava soffrendo e per la passeggiata che aveva fatto per niente. Quando sono arrivato a Donwell, disse, non si è potuto trovare Knightley. È proprio strano e incomprensibile, dopo il rigo che gli avevo mandato stamattina e il biglietto col quale aveva risposto lui, che sarebbe rimasto in casa certamente fino all'una. «Donwell!» esclamò sua moglie. «Mio caro Mr. Elton, non siete mica stato a Donwell. Volete dire la corona? Venite dall'adunanza alla corona». «No, quella è per domani, e proprio perciò volevo vedere Knightley oggi». È una mattinata che arrostisce. E poi son passato pei campi, parlando nel tono di chi ha subito un gran maltrattamento. E questo ha peggiorato le cose. E poi non trovarlo in casa. Vi assicuro che non sono affatto contento. E senza lasciar per me neanche una scusa, neanche un biglietto. La governante ha dichiarato che non sapeva nulla che io fossi atteso. È una cosa straordinaria. E nessuno sapeva da che parte fosse andato. Forse a Harfield, forse al mulino dell'abbazia, forse nei suoi boschi. Miss Woodhouse, questo non somiglia appunto al modo del nostro amico Knightley. Potete spiegarvelo? Emma si divertì assicurando che la cosa era proprio straordinaria e che non poteva offrire una sillaba in difesa di lui. Non posso immaginare, esclamò Mrs. Elton, sentendo il trattamento indecoroso come dovrebbe una vera moglie, non posso immaginare come abbia fatto una cosa tale proprio con voi, l'ultima persona che uno si aspetterebbe di veder dimenticata. Mio caro Mr. Elton, egli deve aver lasciato un biglietto per voi. Sono sicura che l'ha fatto. Neppure Knightley potrebbe essere un tale eccentrico, e i suoi domestici si saranno dimenticati. Statene certo, codesto ha dovuto essere il caso. Ed è probabile che sia accaduto coi domestici di Donwell, che sono tutti, come spesso ho osservato, straordinariamente goffi e trasandati. Sono sicura che io non vorrei un tipo come il suo Henry a fare da maggiordomo per nulla al mondo. E quanto a Mrs. Hodge, Wright la stima poco pochino. Promise a Wright una ricetta e non l'ha mandata mai. Ho incontrato William Larkins, continuò Mr. Elton, quando fui vicino alla casa, e mi ha detto che non avrei trovato il padrone in casa, ma non ho voluto credergli. William pareva piuttosto di cattivo umore. Non sapeva che cosa fosse capitato al suo padrone negli ultimi tempi, ha detto, ma riusciva stento a farlo parlare. Io non ho nulla a che fare con i bisogni di William, ma veramente è una cosa di somma importanza che io debba vedere Knightley quest'oggi. E inoltre diventa una faccenda di gravissimo scomodo che io debba aver fatto questa calda passeggiata per niente. Emma sentì che non poteva far di meglio che andar subito a casa. Con tutta probabilità, proprio in quel momento, ella era attesa là. E si sarebbe potuto evitare che Mr. Knightley diventasse più aggressivo verso Mr. Elton, se non verso William Larkins. Fu lieta nel congedarsi di trovare che Miss Fairfax era decisa ad accompagnarla fuori dalla camera e perfino a scendere con lei le scale. Ciò le offrì l'opportunità di cui subito fece uso per dire: «Forse è meglio che io non ne abbia avuto la possibilità. Se voi non foste stata circondata da altri amici, avrei potuto essere tentata di introdurre un certo tema e far certe domande, a parlare più apertamente di quanto sarebbe stato proprio corretto. Sento che sarei stata di sicuro impertinente». «Oh!» esclamò Jane, con un rossore e un'esitazione che a Emma parvero donarle molto di più che tutta l'eleganza di tutta la sua calma ordinaria. «Non ci sarebbe stato pericolo. Il pericolo sarebbe stato che io vi stancassi. Non avreste potuto farmi più piacere che esprimendo un interesse. Davvero, Miss Woodhouse», parlando più posatamente, «con la coscienza che ho io di cattiva condotta, di pessima condotta, è per me particolarmente consolante sapere che quelli tra i miei amici, la cui buona opinione è più degna di essere conservata, non sono disgustati al punto di... Non ho tempo per la metà di quanto desidererei di dire. Anelo di fare scuse e di chieder venia, di addurre qualcosa in mio favore. Sento che è proprio dovuto, ma sfortunatamente, in breve, se la vostra compassione non è mia amica...» «Oh, siete troppo scrupolosa davvero!» esclamò Emma con calore, prendendole la mano. «Voi non mi dovete scuse di sorta, e tutte le persone a cui si potrebbe supporre che voi le doveste sono così perfettamente soddisfatte, anzi così incantate. Voi siete molto buona, ma io so quali sono state le mie maniere con voi, così fredde e artificiali. Avevo sempre da fare una parte. È stata una vita d'inganno. So che debbo avervi disgustata. Vi prego di non dire altro. Sento che tutte le scuse dovrebbero essere da parte mia. Perdoniamoci subito a vicenda. Quel che c'è da fare dobbiamo farlo al più presto, e credo che i nostri sentimenti non perderanno tempo lì. Spero che abbiate notizie piacevoli da Windsor, molto piacevoli. E la prossima notizia, suppongo, sarà che vi perdiamo proprio ora che comincio a conoscervi». «Oh, quando a tutto questo, naturalmente, per ora non ci si può pensare. Rimango qui fin quando non mi reclamano il colonnello e Mrs. Campbell». «Forse ancora non si può sistemare veramente nulla», rispose Emma sorridendo. «Ma scusatemi, bisogna pensarci». Il sorriso fu ricambiato mentre Jane rispondeva: «Avete molta ragione, ci si è pensato, e vi confesserò. Sono sicura che posso fidarmi che quanto al nostro vivere con Mr. Church e a Hoskin è deciso. Ci devono essere almeno 3 mesi di lutto stretto, ma trascorsi che siano, immagino che non ci sarà altro da attendere». «Grazie, grazie, questo è proprio quanto mi premeva di accertare. Oh, se sapeste quanto mi piace ogni cosa che è decisa e aperta. Addio, addio». Tutti gli amici di Mrs. Weston furono felici a saperla fuori di pericolo, e se la soddisfazione per la sua salute poteva essere aumentata per Emma, lo fu per la notizia che essa aveva dato alla luce una bambina. Emma era stata risoluta nel suo desiderio di una Miss Weston. Non voleva riconoscere che ciò dipendesse dal suo intento di combinare a suo tempo un matrimonio tra lei e uno dei figli di Isabella, ma era convinta che una bambina sarebbe convenuta meglio al padre e alla madre. Sarebbe stato un gran conforto per Mr. Weston, invecchiando, e perfino Mr. Weston sarebbe potuto invecchiare in una decina d'anni, d'avere il focolare ravvivato dai giochi e dalle assurdità, dai capricci e dalle fantasie d'una bambina non mai allontanata da casa. E Mrs. Weston, nessuno poteva dubitare, che una figlia avrebbe voluto dire moltissimo per lei, e sarebbe stato proprio un peccato che una persona che sapeva insegnare così bene non dovesse di nuovo esercitare le sue doti. «Ha avuto il vantaggio, sapete, di far pratica con me», continuò, «come la Baron d'Alman con la Comtesse d'Ostali in Adelaide e Teodoro di Madame de Genlis, e ora vedremo la sua piccola Adelaide educata con un sistema più perfetto». «Cioè», rispose Mr. Knightley, «gliele darà vinte più che non abbia fatto con voi, e crederà di non dargliele vinte affatto. Questa sarà l'unica differenza». «Povera bimba!» esclamò Emma. «A questo modo che ne sarà di lei?» «Nulla di molto cattivo. Il destino di migliaia. Sarà sgradevole nell'infanzia e si correggerà crescendo. Sto perdendo tutta la mia amarezza contro i bambini viziati, mia cara Emma. Io, che debbo a voi tutta la mia felicità, non commetterei un atto d'orribile ingratitudine mostrandomi severo con essi?» Emma rise e rispose: «Ma io ho avuto il soccorso di tutti i vostri tentativi di neutralizzare l'indulgenza di altri. Dubito che il mio buon senso mi avrebbe corretta da solo». «Davvero? Io non ho alcun dubbio. La natura vi ha dato intelligenza. Miss Taylor vi ha dato dei principi. Siete stata fortunata. La mia intromissione poteva far tanto del male che del bene. Era naturalissimo da parte vostra di dire: che diritto ha costui di farmi la predica? E, temo, naturalissimo per voi sentire che ciò era fatto in modo antipatico. Non credo d'avervi fatto alcun bene. Il bene era tutto mio, poiché feci di voi l'oggetto della più tenera affezione. Non avrei potuto pensar tanto a voi senza andar pazzo per voi, perfino per i vostri difetti, e a forza di immaginare tanti errori sono stato innamorato di voi almeno fin da quando avevate 13 anni. «Son sicura che mi siete stato utile», esclamò Emma. «Molto spesso sono stata influenzata da voi in senso buono, più spesso di quanto non volessi riconoscere sul momento. Son proprio sicura che mi avete fatto del bene. E se quella povera piccina di Anna Weston deve essere viziata, compirete il più grande atto d'umanità facendo per lei quanto avete fatto per me, eccetto di innamorarvi di lei quando avrà 13 anni. Quante volte, quando eravate una ragazza, mi avete detto, con uno dei vostri sguardi birichini: Mr. Knightley, farò questo e questo, il babbo dice che posso, oppure ho il permesso di Miss Taylor, qualcosa che voi sapevate che io non approvavo. In questi casi la mia intromissione vi dava due cattivi sentimenti invece che uno. Che creatura amabile che ero io! Nessuna meraviglia che doveste conservare una così affettuosa memoria dei miei discorsi. Mr. Knightley, mi chiamavate sempre Mr. Knightley, e a forza d'abitudine non ha un suono così compassato, eppure è compassato. Voglio che mi chiamiate in qualche altro modo, ma non so come. Mi ricordo d'avervi chiamato una volta George, in uno dei miei accessi d'amabilità, circa 10 anni or sono. Lo feci perché pensavo che vi avrebbe offeso, ma siccome voi non moveste alcuna obiezione, non l'ho fatto più. E non mi potete chiamare George adesso? Impossibile. Io non vi chiamerò mai altro che Mr. Knightley. Non prometto neanche di eguagliare l'elegante concisione di Mrs. Elton, chiamandovi Knightley, ma prometto, aggiunse subito ridendo e arrossendo, prometto di chiamarvi una volta col vostro nome di battesimo. Non dico quando, ma forse potete immaginare dove. Nell'ufficio in cui Knightley unisce il suo destino a quello di Emma. Dispiacque a Emma di non poter rendere più apertamente giustizia a un importante servizio che il miglior senno di lui le avrebbe potuto rendere, al consiglio che l'avrebbe preservata dalla peggiore di tutte le sue follie di donna, dal suo persistere nell'intimità con Harriet Smith. Ma era un tema troppo delicato, non poteva abbordarlo. Harriet era nominata molto di rado tra loro,